realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Pagini, c'è una sigaretta? Volentieri, su. Grazie. No, Ciafanna. No, dico, tenga sì, presente che sono otto lingue e poliglotta. Ah, bravo, giusto adesso sto facendo un film di coproduzione con l'America. Ah, sì. Grazie, ma sì. A cavallo ci sa andare. Ci sa andare, so, a cavallo. A cavallo. Ma proprio a cavallo? No, peccato. Chiaro che se no se ne accorge. Magari il cavallo potrebbe portarlo a mano. A mano? Ma dove porta a mano? Almeno sopra ce le montagne, anche se sta fermo. Ah, però sa fare le crachette. Chi? Il cavallo? No. Lui. Scusi Baggini, no, avevo capito. Non ha bisogno anche di un fantasista? Sì, mi serve un claquettaio. È più bravo di Baggini, dove lo trova? Modestamente. Faccia vedere. Qui? Dai, Baggini. Faccia le claquette. Non c'ho le scarpe adatte, c'è il tappeto. Le faccia così alla meglio, tanto per avere un'idea. Sì, alla meglio, alla meglio, capirete. Come? Si parla, si parla. Ragazzi, levate tutto. Questa è un'occasione unica per lei. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Ti introduco fin dall'inizio, essendo una delle ultime puntate che facciamo assieme, almeno per questa stagione, ma chi può dirlo. Ci siamo arrabattati anche quest'anno nel ricercare punti assoluti di riferimento nel racconto del nostro paese fatto attraverso il cinema, attraverso la commedia italiana. Ne abbiamo trovati di remoti e facciamo una gran fatica a trovarne di prossimi, di recenti. Tra quelli remoti più calcati e che maggiormente ci sono serviti a trovare punti fermi, boe costanti nel racconto dell'Italia vista attraverso il cinema, è un certo tipo di cinema, probabilmente sottostimato, che non entra nei libri di storia ma che in realtà ha colmato delle fessure incolmabili della storiografia ufficiale, c'è Ugo Tognazzi. Tognazzi è un corpo organico che buca lo schermo. La sua modernità straordinaria e il suo persistere ancora oggi è proprio legato a quello. Qui abbiamo ascoltato un estratto di Io la conoscevo bene del genio misconosciuto Pietrangeli, in cui lui, in questa festa in cui la star Enrico Maria Salerno, il grande attore, viene umiliato dal potente Salerno, perché un attore di avanspettacolo, tra l'altro, tradisce appunto le radici avanspettacolari faticose della vita artistica di Ugo Tognazzi, che nasce lì calcando quei palchi di provincia e diventa gradualmente, incontrando e osando e rischiando sempre il proprio corpo, la propria fisicità, con i vari Ferreri, i vari Pietrangeli, i vari Salce prima, racconta un italiano sfaccettato, un italiano di cui si percepisce la reale sessualità, il reale amore per il cibo. Non è una macchietta stereotipata come a volte riesce a essere Sordi, è qualcosa che ha più dimensioni, è più sfaccettato, è più profondo, è più ricco. Ti faccio subito la domanda finale, così non perdiamo tempo poi alla fine. Come mai oggi non troviamo che fenomeni transeunti, meteore, persone che dovrebbero immobilizzare con un filo satirico, con un filo di racconto a volte lieve, leggero, la contemporaneità, riescono soltanto a farlo per piccole parcelle legate a personaggi, la Carfagna che l'altro giorno ha preso per il culo Crozza dicendo: beh, senza Berlusconi dove vai? È vero, immancabilmente vero, il napoletano di Crozza è inesistente, non esiste, ma non esisterà, non passerà la storia né napoletano né Crozza, e ancora oggi parliamo di Tognazzi. Perché il tubo catodico inevitabilmente appiattisce, per rimanere, permanere, tatuarsi nell'immaginario collettivo bisogna avere la profondità di un'equipe di lavoro che era costituita da grandi sceneggiatori, da grandi attori e che andavano alle radici profonde, coglievano essenze poetiche dell'Italia. Quello si può fare ancora oggi, ce ne sarebbe da raccontare, bisogna avere il coraggio di usare col linguaggio. Carmenzita, amore mio, io sono uomo d'affari. Brinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni. Tapioca, terapia, dollari, sterline, allaccia, scarpa, allaccia di cosa, albergo. Il reverendo Vernocchi. Ah, perdon. Terapia tapioca come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con Dominus Viscum Blinda. Come, prego? Terapia sulla supercazzola con scappellamento a destra o a sinistra? No, la cappella a sinistra e a destra. Antibodi. Scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scriba e Copefallina. Come antifurto, per esempio. Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro. Un sintrometto. 800240024. Rimpiangete Ugo Tognazzi. Com'è ancora oggi si parla di supercazzola? Com'è i commentatori politici ancora dicono supercazzola? Com'è rimasto fra l'infinità delle facezie, dei modi di dire, delle invenzioni poetiche e delle ilari illazioni, è rimasta ancora la supercazzola? Gianmarco Tognazzi, buongiorno. Buongiorno. Questa mattina siamo qua per parlare di tuo padre, non per ricordarlo, perché si ricordano soltanto le persone morte, scomparse, per farle ritornare nella memoria, ma come vedi, tuo padre nella memoria è ben vivace. Come nacque la supercazzola? Non avete mai parlato in famiglia? Nacque in realtà da una serie di avvenimenti che già esistevano e di cui sia Germi e poi dopo Monicelli lo fecero diventare il punto di riferimento dello scherzo che faceva sempre il Mascetti. In realtà sono cose, diceva Mario Monicelli, che esistevano in una certa Firenze, che venivano fatte da personaggi veri, ed era un modo di scherzare molto molto così genuino, dove chiaramente poi si è applicata anche la fantasia di Ugo nel trovare quegli scioglilingua che li rendessero ancora più comici dello scherzo in se stesso. Però sono rimaste nel vostro immaginario familiare, nella storia di famiglia. Tu adesso fai un vino, si chiama Tapioca Antani, che sono presi dal supercazzolare più o esatto. meno. Esatto, questo è stato in realtà l'omaggio che ho voluto fare io a due vini di cui lui era estremamente orgoglioso, perché insomma la sua più grande passione, lo ha detto più volte, non era il cinema ma era la cucina, e la sua prerogativa era quello di cucinare tutto quello che riusciva a dargli la sua terra. Infatti ci portò a vivere in campagna, a me fin da appena nato, e quindi vivendo la campagna e amando il prodotto della terra, anche quello che era, diciamo, il vino e l'olio, che erano i due prodotti che Velletri, poi dove noi viviamo, sono insomma i due prodotti più importanti. Ecco, lui ne era talmente orgoglioso che io non ho fatto altro in questo caso che portare avanti quello che era un suo sogno, cioè che i prodotti che faceva bere poi a tutto il cinema che ci veniva a trovare, sia per lavoro sia per goliardia e volontà di stare insieme, che poi anche la filosofia legata al nostro alla volontà di riscoperta di una cosa che non è una mia invenzione ma è una sua invenzione, che non è stata portata avanti fino in fondo, e il suo obiettivo era quello un giorno di farla arrivare al suo pubblico, che, come dicevi prima, ancora lo ricorda come se fosse qui tra noi, perché l'atteggiamento che io ricevo da parte di chiunque, anche quando giro con le mie cose a teatro piuttosto che sui set, immediatamente c'è un riferimento a quando Ugo è passato in quel posto, in quel ristorante dove si sedeva, il fatto di appartarsi e di avere un rapporto totalmente aperto dal primo conosciuto al Presidente della Repubblica. Questo, credo, questa sua totale onestà e apertura nei confronti della vita e delle persone, credo che sia quello che ancora lo rende così vivo, e che ha fatto sì che anche nel caso di questa volontà di riscoperta enogastronomica, partendo appunto dal suo vino e dalla sua etichetta da lui disegnata, porta questa, come dire, ancora oggi questa la tognazza amata. Sì, lui prese un foglio a quadretti di un quaderno, ci fece una scritta a mano e poi ci fece un cerchio, sì, diciamo un cerchio rosso, e questa cosa molto semplice, come è sempre stato lui e molto casareccia, era l'etichetta che metteva sulle bottiglie che facevamo a casa. Io non ho fatto altro che ripristinare esattamente la sua idea, perché devo essere un tramite, non devo essere un inventore di nulla. Carlo, buongiorno. Buongiorno, proprio avete centrato stamattina, ogni tanto sento spessissimo la vostra trasmissione, più a certe situazioni proprio centrate degli obiettivi che mi colpiscono molto e quindi mi fanno intervenire. L'ultima volta che intervenni con voi fu a proposito degli Umarels, la mitica puntata sugli Umarels di Bologna. Per quanto riguarda Tognazzi... Quindi lei ormai è, diciamo, agli sgoccioli della sua vita? Ride, io non starei tanto allegro. Ho due bimbi piccoli, quindi speriamo di no. Ancora la Bologna si dice ancora due manzate di fagioli, speriamo di averle. Ecco, mi parli di Tognazzi, visto che oggi... Di Tognazzi, guardi, una cosa, dal momento che è un personaggio che davvero a cui ho voluto bene, una cosa che mi è rimasta molto bella della mia gioventù, una trentina d'anni fa, in una discoteca di Riccione, non mi ricordo, una delle mitiche, Villa delle Rose, Peter Pan, non mi ricordo quella che era, capitammo un sabato sera con amici e c'era Tognazzi con amici in questa discoteca, in un tavolino di questa discoteca. All'uscita vidi che c'era le persone che erano con lui, che erano erano fermi su una macchina con uno sportello aperto, e quindi mi venne naturalmente arrestate, finestrini aperti, mi venne passando di lì e dire: beh, Toniassi, parlando di dico, beh, Toniassi, dove l'avete messo? In quel momento sentì a distanza di 10 metri la voce di Toniassi da una decina di metri nella penombra, che diceva: Toniassi sta pissando contro una siepe, lascialo pissare in pace, almeno poi arriva. Quindi, tanto per dire, così, un personaggio che cinematografo, cioè come mito del cinema a cui volevi bene, è veramente un personaggio di sicuro anche nella vita, fortunato secondo me chi l'ha potuto conoscere. Tutto qua. Giuseppe Sansonno, guarda, la telefonata di Carlo è quello che ci ha detto Gianmarco Toniassi, ci ha cominciato a accennare su questa attività, questa vera anima enogastronomica del padre, e il ricordo di questo ascoltatore mi porta a pensare che forse nella grande abbuffata troviamo messi insieme questi due elementi, la corporeità nella fase di acquisizione del piacere, nella fase del disfacimento, del rilascio. Esattamente, il film forse più spietatamente autobiografico credo sia di Ferreri che dello stesso Toniassi, incentrato proprio su di lui, su questo amore anche per il dettaglio della cucina. Molti suoi amici addirittura un po' lo sfotticchiavano, compreso lo stesso Villaggio, dicendo che magari un certo osare anche dal punto di vista gastronomico a volte produceva risultati. Beh, guarda come è ridotto Villaggio, di camminare con la gonna che non può più mettere. Non credo che sia colpa di Toniassi, no. di quelle fu profeta di se stesso. Però l'allegoria straordinaria, mortuaria di questa borghesia che si auto uccide, si auto elimina, infarcendosi le arterie di dettagli gastronomici, è meravigliosa. Ovviamente coglie un lato di Toniassi, perché Toniassi credo fosse anche molto solare nella vita, però lì c'entrano proprio un obiettivo particolare, unendo Toniassi, che era il grande attore popolare italiano, al grande attore aristocratico che era Mastroianni, e Michel Piccoli e Noiré, che erano i corrispettivi francesi, e questa è la grande intuizione. Come diceva Gianmarco prima, era un gruppo di amici che collaboravano e inventavano cose grandiose. Penso di essere un indiano di Bombay, un indianino che ha fame, una gran fame. Sì? Se hai molta fame, scusa, che cosa fai? Mangi. Mangia. Mangia. Se tu non mangi, tu non puoi morire. Bisogna mangiare. Bisogna mangiare. Io pensavo che Filippo sarebbe stato il primo. Il giudice. Sono pazzi. Era fantastica questa esasperazione del piacere del cibo, della crapula, che viene portato oltre il limite estremo in cui il piacere comincia a diventare elemento di dissoluzione. Ma lo trovo molto diverso da Patrizia, che mi scrive su Facebook in questo momento, dice che sto appena spellando i pomodori. Penso al tiepidume mesto dell'ascoltatrice che ci ascolta e spella i pomodori, lì esplota e esprime tutta la sua possibile lussura domestica di questa mattinata. Alessandro Capria, buongiorno. Buongiorno. Alessandro Capria, ti ho voluto perché tu sei l'anima tecnica di questa fabbrica di gusto e di suggestioni. Sentite una grande abbuffata, in realtà c'è un'immagine del cibo che ci risulta un po' difficile a considerare come elemento di distinzione, di piacere, di sollievo. La linea che state prendendo, visto che Gianmarco Toniassi è l'erede fisiologico, genetico, poi in realtà bisogna lavorare su un piano pratico. Mi puoi sintetizzare cosa significa fare una linea legata a Toniassi di cibo e di materiale per il piacere del palato? Allora, fare una linea, creare una linea con Ugo non è possibile, perché entrando a Velletri in quella casa lo respiri ancora, respiri dei dettami, respiri delle voglie, dei piaceri, quindi puoi solamente prenderne atto e tentare di svilupparla il meglio possibile e portarlo tra la gente. Io quello che ho voluto fare con Gianmarco è stato quello di provare a portarlo tra la gente. Gianmarco, quanto c'era della grande abbuffata di questo cibo che ci sovrasta, alla fine ci uccide, in realtà nella quotidiana applicazione culinaria di tuo padre, che è una persona che cucinava molto, cucinava per gli amici cattivi dicevano: no, non sa mai cucinare, sembra proprio Villaggio, disse qualcosa del genere. Allora, la realtà dei fatti è che mio padre pensava in maniera maniacale al cucinare, ma perché era la sperimentazione continua di un cambiamento, anzi più le cose gli venivano perfette più le doveva cambiare. Quindi questo film lo rispecchia molto, la grande buffata. Ma sì, ma è evidente che l'ispirazione nata da Marco Ferreri nasce dalla quantità di cene, della quantità di pietanze che Ugo, in maniera senza abbuffarsi, perché poi quella, diciamo, è la giusta metafora che tira fuori Ferreri, non è che Ugo arrivava a quei livelli, però arrivavamo a fare delle cene dove c'erano due primi, tre secondi, i contorni, il sorbetto in mezzo, e quindi c'era... Era una metafora di grande abbuffata, diciamo. C'era questa metafora di grande abbuffata, poi in realtà non si faceva nella quantità, si faceva nella diversificazione da parte di Ugo, che però aveva... Io non faccio colazione perché la mattina alle 7 mi alzavo per andare a scuola e lui, prima di andare sul set, già aveva due o tre persone in cucina a cui dava i dettami, come diceva prima Alessandro, di come iniziare a preparare quelle che sarebbero state poi gli elementi per far diventare il menù della serata. Telefonava per far andare avanti determinate cotture, cucinava sui set dove faceva allestire cucine da campo per cucinare per la troupe, perché poi doveva essere anche la convivialità di viverlo attori e tecnici insieme come una grande famiglia. Ecco la grande differenza, il grande cambiamento anche cinematografico, lo stare insieme, la convivialità e, come dire, unire la passione per il lavoro con quella dello stare insieme, che crea e genera... Sembra quasi una fede, sembra quasi una sua forma di culto quotidiano. Assolutamente, per come lui nel suo primo libro dice: io ogni mattina mi inginocchio davanti a questo grande frigorifero che è un po' la cappella della mia famiglia, e mia moglie mi trova inginocchiato davanti ai quarti di bue, le cose eccetera eccetera. Quindi questo dimostra quanto Ferreri poi abbia colto nella, se vogliamo... Tu ti chiami Gianmarco per questa ragione? Sì, diciamo che Marco è legato al fatto che, insomma, Marco Ferreri e Ugo avevano una similitudine di ironia, di modo di vivere, di modo di cinismo anche, di modo di scherzare, ma allo stesso tempo con una grande onestà intellettuale, una grande autoironia, erano dissacranti per eccellenza. E questo, nell'analisi di Marco rispetto a Ugo, portò sicuramente all'intuizione della Grand Bouffe, tant'è che poi il modo in cui lo coinvolse all'interno del film fu addirittura paradossale, perché lui andò da tutti e quattro poi i protagonisti dicendo a ognuno di loro separatamente che già gli altri tre avevano accettato, e chiaramente quando andò da Ugo, vecchia tecnica, dicendogli: Ugo, faccio sto film dove se magna, se muore, quattro amici, lo vuoi fa? Dice: come? Se magna, se muore, se cucina? È la storia mia, l'hai presa da me, voglio fare. Quindi è chiaro che Ugo poi, provocato, avrebbe accettato no immediatamente, ma anche gratuitamente, così come fecero tutti. Ricordiamo che il film alla fine non trovò tutta questa fiducia in Italia produttiva, tant'è che si andò a girare in Francia, come già... Marco Ferreri ebbe altre difficoltà all'inizio della sua carriera, e ne rendeva merito anche a Ugo, perché veniva considerato un regista di nicchia, un regista che aveva avuto adesso fortuna all'estero. Adesso ti do un segno tangibile di quanto poi questo immaginario sia trapelato, sia diventato una sorta di quasi religioso comandamento quotidiano. Mi scrive un'ascoltatrice un SMS che leggo per intero. Nicoletti: sa che da sempre mio marito, quando mi vede nuda, cita Tognazzi quando nella stanza del vescovo dice che il culo lo fa ridere mentre la gnocca lo commuove e lo fa piangere. Così Ugo vive nella mia camera da letto per sempre. Deborah, buongiorno. Buongiorno. Anche suo marito le dice qualcosa di simile? Beh, non proprio così, ma quasi, sì. Sì, sì. Quando la guarda di fronte piange, quando la guarda di dietro sorride. No, lui preferisce, quando ero un po' più magra, mi ha sempre detto: dovresti ingrassare qualche chiletto per essere più burrosa, che le donne giustamente sono più belle. E lei l'ha esaudito in questo? Assolutamente sì. Vista la scarsità di uomini che ci sono ora in giro. E dice: quei pochi bisogna farli contenti. Assolutamente sì. E poi sa, la fame viene mangiando, ne fa contento uno, poi gli viene voglia di far contenti tutti. No, basta uno. Sì, basta uno, quando mai. Mi dica, allora, parli di Tognazzi. Io ho avuto un'esperienza straordinaria. Vede, già subito ha contraddetto quello che ha detto. Un'esperienza straordinaria che ha segnato veramente in parte la mia vita. Rimanemmo in panne con la macchina con mio fratello. Io ero veramente una bambinetta, avevo forse 16-17 anni, e suonammo a questo cancello e ci aprì Ugo Tognazzi. Era a casa di Tognazzi. Era a casa di Tognazzi, noi non lo sapevamo naturalmente. Era lei e suo padre? No, io e mio fratello. È suo fratello. E quindi ci fece entrare, ci diede la possibilità, all'epoca chiaramente non c'erano i cellulari, di poter chiamare e avvisare appunto i nostri genitori che eravamo rimasti in pane. E lui stava cucinando e disse: volete farmi compagnia? Era sera, avevamo fame, ho detto sì. E fu veramente una, mi creda Nicoletti, una gioia per gli occhi vederlo all'opera in quella cucina. Io veramente mi sembrava un direttore d'orchestra che metteva insieme un'orchestra. E cosa vi ha dato da mangiare? Ci fece degli spaghetti, intanto dei crostini, assaggiammo un vino, non so se era il suo, però... Era quello, glielo posso confermare, solo quello girava a casa. Ci fece dei crostini, ci diede... La fece quindi. Ma no, è una cosa spettacolare, e ci fece rimanere a dormire lì, perché la nostra macchina rimase in panne, l'indomani mattina venne mio padre. E fu un'esperienza indimenticabile, come ha detto prima. Assolutamente sì, perché io se oggi cucino, veramente lo dico, ha segnato in parte la mia vita, perché io quella sera rimasi colpita dalla maestria, dall'eleganza e al tempo stesso dalla semplicità di quest'uomo di gestire i coltelli, le pentole. Mi commuove, quando parla lei mi commuove, perché mi dà esattamente, mi rimanda esattamente l'immagine di quello che era mio padre e quello che, voglio dire, molti pensano, ma che lei ha avuto la fortuna di vivere su una coincidenza. Per un uomo... Un uomo vero come me, questa è l'età giusta. Basta con le soluzioni avventurose. Alla mia età, come dice il Mantegazza, l'uomo ha bisogno dei famosi 3C. Carezze, caldo, comodo. Non è mica facile. Tratto signorile col sesso debole. Serietà sul lavoro, niente compromessi, poca confidenza con la gente. Poche ma scelte pubbliche relazioni. Allargare i propri orizzonti. Niente bar, niente circoli. Un po' di chiesa, aspetto fisico, aspetto morale, aspetto un mese e mi sistemo. 800240024, oggi stiamo parlando di Ugo Tognazzi. Ne abbiamo lungamente parlato in questi ultimi anni con Giuseppe Sansonna, ma oggi lo facciamo nello specifico, lo facciamo con il figlio Gianmarco Tognazzi, con Alessandro Capria, che assieme seguono quella che abbiamo capito questa mattina essere la linea fondamentale di tutta la poetica di Tognazzi. La conoscenza del mondo e la trasmissione di sé attraverso l'uso sapiente, quasi liturgico, del cibo. Tognazzi era innanzitutto un cuoco. Cucinando si fa partecipare gli altri, dando al nostro prossimo parte del cibo che noi cuciniamo, si fa una sorta di laica pagana e carnale eucaristia con il mondo, e questa è rimasta traccia così indelebile, tanto che ci ha chiamato una signora ricordandosi che a 16 anni era stata invitata col fratello a casa di Tognazzi e aveva loro dato da mangiare. Giuseppe Sansone Venga a prendere il caffè da noi è anche un film molto legato all'aspetto della carnalità, però ponderata, studiata da ragioniere, sì, perché anche quella, come il cibo, fosse nella giusta dose e con i giusti ingredienti. Di Tre Sorelle se ne faceva una decente. Sì, lui era un calvinista lubrico in questo film. Lui è il primo comico che arriva dal nord, quindi irrompe sulla scena romana e comunque meridionale dei comici dell'epoca, e porta dietro anche questo tipo di filosofia. Lui si ispira al darwinista Mantegazza e accumula queste tre sorelle che sono la Vukotic, la Goodwin e la Francesca Romana Coluzzi, che è un colosso, un armadio, e appunto le mette insieme, poi gli sarà fatale la cameriera. Ma quello che si diceva prima, la sua fisicità, la sua corporeità fatta di cibo, fatta di capacità di gustare i diversi sapori, è reale e passa, la sua umanità traspira dallo schermo, perché è percepibile, è autentica, non è il gallismo italico di tanta commedia. C'è una scena fantastica in cui le tre sorelle, naturalmente, per sedurlo e possederlo, ma già le ha possedute tutte e tre, ognuna per la sua specialità, una le gambe, l'altra i capelli, l'altra non mi ricordo ancora, forse le mani, non so, ognuna prendeva qualcosa, lo riempono di cibo, si abbotta. Lui, mangiando, ogni tanto scosta delicatamente una natica e si lascia andare in una liberatoria flatulenza, dimostrando che in fondo siamo un ciclo continuo. E poi questa è la filosofia in embrione della Gran Bouffe. Sì, è davvero libertino sadiano. Tra l'altro c'è una cosa che si sa poco. Carmelo Bene e lui erano in buoni rapporti e aveva scritto per lui una sceneggiatura ispirata a Sad, in cui lui per l'appunto era un libertino che faceva prostituire la moglie e la figlia in una stalla. Beh, il minimo, mi sembra. E dall'altro inscenava in questa casa il lavoro come modo per arrivare all'orgasmo, cioè avere la macchina da scrivere finta, simulare appunto il calvinismo per poter accedere ai piaceri erotici. Beh, non c'è piacere se non c'è trasgressione, se non c'è una rettitudine perlomeno esteriormente ostentata. Non c'è nessun gusto a fare il libertino, certo. Si diventa come, che ne so, come Sgarbi, ad esempio. E Gianmarco Tognazzi, mi chiedono molti, cioè, perché non parlate di Vianello? Vogliamo citare questa figura fondamentale, in fondo, questa accoppiata, perlomeno per un certo periodo, legata, sembrava in maniera indissolubile, a tuo padre. Assolutamente, è stato l'inizio, diciamo, di Ugo Tognazzi, conosciuto a livello nazional popolare, perché l'avvento di Tognazzi e Vianello in televisione portarono un 2-3 che fu quella trasmissione che già allora, pur non essendoci una storia della televisione, riusciva a fare satira prendendo in giro la televisione stessa. Quindi anche questo parlava probabilmente di quella dote di anticipazione che aveva Ugo e che aveva anche, secondo me, Raimondo, e questa differenza totale sia nella comicità, dove nessuno era spalla di nessuno, erano tutte e due spalle, tutte e due primi attori, quindi una divisione democratica della scena, che li portò a essere amati prima in televisione, poi al cinema, e poi quando le amicizie, quando le comprensioni delle differenze, delle opportunità sono oneste, secondo me, anche la normale separazione, senza togliere l'ipotesi di rivedersi in altri ambiti, quali appunto trasmissioni televisive, sketch televisivi, spot addirittura pubblicitari negli anni 70. Quindi voglio dire, un'amicizia vera, non basata sulla quantità della frequentazione al di fuori del lavoro, perché loro si vedevano soprattutto per lavorare, anche quando erano molto affiatati e molto insieme, ma così diversi all'esterno e nella vita, da rispettare le proprie differenze. Abbiamo due donne, Lina. Prego. Anche lei. Buongiorno a voi. Sì. Sono emozionata. Comunque io ho un ricordo molto semplice di Tognazzi. Dal momento che c'è anche uno dei figli potrà confermare. Io sono nata in un piccolo paese della montagna, il Serramazzoni, provincia di Modena. Ero io che andavo a giocare a tennis a Serramazzoni. Bravo, esatto. Infatti in questo paese vi era già da molti anni il Centro Federale Tennis, e il paese era molto piccolo, quindi esisteva un tantan, il tantan umano, diciamo. Si imparavano le presenze, le nuove presenze, così direttamente dalle persone. Noi sapevamo chiaramente che tutti gli anni, e per lunghissimi anni, arrivava uno dei figli di Tognazzi. E quindi c'è questa presenza che terminava prima della chiusura del centro, del turno del centro al tennis, in un momento che io ricordo come la grande spaghettata. Perché Tognazzi organizzava questa grande spaghettata in un hotel del paese, alla quale partecipavano tante persone che io non conosco, però questa informazione così culinaria e non solo sociale veniva poi comunicata dalla stampa. E quindi io ricordo Tognazzi, la sua presenza in questo piccolo paese per tantissimi anni, così proprio con affetto. Sì, non perdeva occasione, anche se soltanto per venirmi a riprendere alla fine del ciclo estivo, per poter anche in quel di Serramazzoni organizzare quello che io ripeto e stiamo ripetendo, quindi la ringrazio per l'ennesima testimonianza che conferma quello che io vado dicendo di mio padre, la sua volontà di condividere con gli altri, non importa dove, quando e come, pur di riunirsi tutti insieme anche lì, tra conosciuti e sconosciuti non era importante quello, ma poter condividere, perché stare intorno a un piatto di pasta o intorno a una tavolata significava ritrovare quella possibilità di scambio, di curiosità. Pensa al paradosso che in realtà i i suoi personaggi più riusciti erano persone di un cinismo abissale. Certo, perché sì, quello era il contraltare, cioè lui cosa lo divertiva, ed è credo l'unica cosa che mi ha insegnato indirettamente nella mia, nel mio andare avanti nella mia carriera cinematografica, quello di sapersi divertire a rappresentare anche e a portare alle esasperazioni le proprie debolezze, i propri difetti, fare una critica sociale. L'attore in realtà nel cinema non ha altro, altra possibilità che la caratterizzazione del personaggio, perché il film è del regista. Poi è chiaro che più tra regista e attore ci sono, c'è confidenza, c'è fiducia, c'è spirito di iniziativa, più c'è questa confidenza e più la costruzione del personaggio può essere precisa. Mia, vieni qui. Non posso voltare la testa che tu subito prendi la fuga. Vieni qui, Mia. Se non ti sento vicina, lo sai, sono come smarrito. No! Come no? Ma tu ti allontani sempre. Sei mia moglie, devi stare con me. Lo sai che vorrei affogarti, davvero. Affogare mia moglie. Ah, non credo che lo farei mai. Ah, non credi? Ma io lo faccio senz'altro, guarda. Ma non per affogarti. Lo faccio per scherzo. Per vedere quanto resisti sott'acqua. 6, 7, 8. Non voglio morire, Igor, no! 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ti mando tutto sotto, guarda. Giuseppe Sanson. Cosa sta accadendo? Questo è Marcia Nuziale di Ferreri, l'episodio La famiglia felice. In questo futuro distopico immaginato da Ferreri in combutta con Tognazzi, siamo nell'isola incontaminata di Giannutri con queste rovine romane della villa dei Domizia e Nobarbi, e c'è Tognazzi appunto con questa voce mellifula, musicale, nasale, sordida, che prende questo manichino, la pille dell'inorganico, e lo immerge e poi gli fa anche da ventriloquo. È appunto un futuro in cui si immagina che il ministero per la famiglia doti ciascuno di una moglie di plastica, di figli anche di plastica, e in questa isola incontaminata. Beh, oggi con le bambole gonfiabili realistiche, sì, hanno fatto miracoli. Ma non è solo quello, c'è anche proprio l'inorganico, la pill di questo sintetico che può fare da figlio. Beh, questa fu un'anticipazione, perché in realtà il cybersex ancora non se ne parlava nemmeno. Assolutamente, siamo in la visione che ci potesse essere un succedaneo in 3D di un oggetto di affettività col quale sfogare l'aspetto sensuale ma anche l'aspetto mortificatorio era una grande. E c'è una folgorante, scusa, un'anticipazione di Blade Runner, perché nel finale questo cyborg donna piange quando lui le dice che non l'ama più perché ci sono dei manichini più adeguati, quindi piange come appunto Rutger Hauer nella pioggia. Quindi Philip Dick si è ispirato a Tognazzi. È possibile, a Ferreri sì anche. Maria Grazia, buongiorno. Sì, buongiorno. Racconti sì del suo invito a cena. Io sono una cremonese, ma Tognazzi non l'ho conosciuto a Cremona, l'ho conosciuto a Parigi dove stavo con mio marito, eravamo giornalisti tutti e due. Cremona, non vorrei dire un'infamità, non è la città delle 3C ma delle 3T, o sbaglio? Sì, lo so. No, no, e quale sono le 3T? Che non mi è vero, però è ancora anche un po' quello delle 3C, vabbè. Ah, vabbè. Le 3C e le 3T messe assieme è il massimo, dell'aspirazione di noi. È una bellissima città, cioè ha delle cose molto belle. Lo so, Fabrizio Intonti che è giovane è perplesso, ma glielo spieghi, guardi, è un povero ragazzo che non conosce. No, no, ci vale la pena solo per la piazza. Vabbè, del allora, comune. Lasciamo. Sì. Dunque, Tognazzi, niente, l'abbiamo conosciuto a Parigi, sicuramente a casa, adesso i miei ricordi non sono precisissimi, ma sicuramente a casa di Marco Ferreri che frequentavamo abitualmente. E appena scoperto che abitavamo a poche decine di passi al Pantheon, lui alla Contrescarpe e noi a Rue Podefer, subito mi ha proposto di venire a preparare una cena da noi. Io ero un po' perplessa perché la mia cucina era minuscola in rapporto a una sala, invece a un salone molto bello su un giardino molto grande che poteva ospitare parecchia gente. Comunque non eravamo in molti, eravamo poche persone. E lui mi disse cosa comprare per preparare soprattutto un risotto, poi per il secondo ero libera io di fare quello che volevo, riso di una certa qualità, burro, formaggio, parmigiano, insomma mi diede da fare per trovare tutti gli ingredienti. Arriva con una sua amica e si installa in questo cucinino e io ero terrorizzata perché dico adesso mi criticherà il cucinino, dirà che non può fare niente in questo modo. Invece la prima cosa che mi dice è: sono sicuro, un po' macio, perché lui lo era un pochino, cremonese, di razza, sono sicuro che non hai tutte le cose che mi occorreranno per cucinare. E lei cosa fece a quel punto? E io dissi, vabbè, io sono il tuo garzone, dimmi cosa ti occorre e io ti do. E avevo un chiaro offrirsi, avevo tutto quello che gli chiedevi, il cucchiaio di legno, non so, adesso esattamente, ma insomma il tegame giusto, col fondo giusto. Quindi c'era, diciamo, una ricerca minuziosa, attenta e tecnica anche degli accessori, della strumentazione. Io imparai da lui a fare il risotto alla Tognazzi, che è un risotto in bianco, molto semplice, ma con un finale strepitoso, perché in mezzo a questa montagna di riso che ancora un po' al dente lui rovesciava in un piatto, in un grande piatto, ma doveva essere a piramide, infilava una boccettina di una bottiglia piccola da un quarto di champagne, che doveva essere però di marca, la apriva molto delicatamente. Gianmarco Tognazzi sta mimando l'operazione, l'avrà vista fare mille volte. Gianmarco, sì, sicuramente. Sì, no, ci metteva una punta di cucchiaino di zucchero e fuoriusciva tutta la schiuma, fuoriusciva tutto lo sperma. Che... E quello quando ce l'aveva messo prima? No. Lui allora metteva il risotto caldo, caldissimo, la bottiglia fredda, la reazione con lo zucchero, il caldo e il freddo, veniva fuori questa spuma densissima, sì, che lui chiamava sperma, perché lui era un grande amatore, era un grande... E quindi cui... tutte felici vi buttavate addosso questo risotto? Guardi, io quando voglio fare una serata d'effetto ai miei amici preparo il risotto alla Tognazzi, ancora adesso, che sono una vecchietta di 75 anni. Beh, vivo... l'ha mantenuta giovane però questa sì, importante ricetta. Sì, l'ho avuta anni, beh, insomma, giovanissima no, ma comunque fine anni 80, inizio 90. Poi ci frequentavamo anche per altre ragioni, ma insomma, comunque fu una serata indimenticabile. Una battuta, Alessandro Capra, ti ho tenuto di sparte, ma ci tenevamo a portare i ricordi. Ho ascoltato molto volentieri. Ecco, però tu, visto che sarai poi l'anima tecnica di questa Tognazzi amata, ti rendi conto, o me ne rendo conto io, e forse tu già lo sai, che l'elemento tecnico è una costruzione lenta, è una tecnica, è una sottile antica arte amatoria che passa attraverso la cucina. Forse se dobbiamo racchiudere una cifra, a differenza di tutte le grandi città del gusto ci sono oggi, che in fondo è un'idea un po' fighetta, culturale, esotica, multietnica, qui l'ha detto la signora, qui si parla di passera palpitante portata in tavola. C'è molto di sessuale in ogni piatto di Ugo, è così, ma è tutto anche nella scelta dei colori. A parte che su ugotognazzi.com trovate delle sue ricette di cucina, e uno può capire che cos'era la gioia per lui di scrivere una ricetta, perché viene fatta a mille colori, a pennarelli, quindi diventa un'esplosione il solo pensare di preparare qualcosa da mangiare. Ecco, Gianmarco, proprio in conclusione, una battuta: com'è questo aspetto? Sì, i conoscitori di Tognazzi lo conosciano bene tutto, adesso comincia a passare proprio come cultura, il momento giusto in cui il cibo diventa così importante, il cibo particolare diventa così importante, il gusto sembra una categoria che non avevamo mai conosciuto prima. Adesso è il momento di parlare di Tognazzi che passa attraverso la cucina. Beh, sicuramente per quello che riguarda me è venuto il momento di fare i conti con il passato. Io ripeto, ho vissuto per anni in campagna, poi mi sono distaccato come tutti i bravi ragazzi che agognano la città, e dopo la scomparsa di Ugo ho avuto un po' di difficoltà a tornare in quel luogo, perché come diceva Alessandro si respira ancora Ugo in tutto e per tutto, ed è rimasto invariato. Poi piano piano la volontà di realizzare per lui quelli che erano i suoi sogni. Il suo sogno è che io diventassi agronomo più che attore, e forse non aveva tutti i torti. E ci stai andando e molto quindi vicino. Ci sto cercando di andare vicino, cercando prima di tutto di mettere in piedi e di ristrutturare questa cosa dei vini di Ugo e dell'olio, e poi un domani realizzare il sogno. Possiamo di fare anche il sito della Tognazza, se è possibile, sì, che è www.latognazza.net, per chi vuole scoprire un po' il nostro mondo pian piano. Siamo passati per la Tognazza, siamo arrivati al ricordo di Tognazzi. Ci sentiamo domani.